Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Bisogna avere molta cautela con chi è felice. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Stiamo per raccontarvi Jack Frusciante è uscito dal gruppo, di Enza Negroni. È la storia dei tormenti tardo-adolescenziali del giovane Alex che si innamora di Adelaide, compagna del liceo Caimani in partenza per gli Stati Uniti. Audiogrammi, in radio, come al cinema. Quella pseudo primaverile domenica pomeriggio, il vecchio Alex aveva arrampicato le scale di casa con in testa il presagio. Meglio, con in testa la telefoto presagio della sua famiglia, barricata in tinello, a guardare le pattonate americane via Grundig. Un istante più tardi, non si era ancora sfilato il parca, aveva dovuto prendere atto che la telefoto, di un realismo agghiacciante, gli provava quanto le sue facoltà di preveggenza stessero raggiungendo con l'età livelli negromantici sbalorditivi. Erano tutti in salotto e tutti variamente sgomenti o assorti di fronte alle forzute vicende del Rocky IV. Ok, sullo schermo radioattivo del Grundig risplendeva il forzuto epos del tappo culturista. Non potevano esservi dubbi, non si trattava di un prossimamente, stavano proprio trasmettendo tutto il film. E in quella, mentre sullo stallone nano incombeva l'oscura e forse definitiva minaccia del robot sovietico Drago, era squillato il telefono. Ora, non vi farò il torto di tacere che se il vecchio Alex avesse anche solo lontanamente immaginato che attraverso quegli squilli la soave Adelaide stava apprestandosi a fare irruzione nella sua vita, mica sarebbe andato a rispondere così scazzato e ciabattante come in effetti fece, ma si sarebbe fregiato d'un vestito di piume colorate e scarpe d'oro massiccio. Pronto? Sì, sono io. Adelaide? Ah, sì, sei in classe con il Volpe, no? Ah, no? Con chi? Ah, sì, con Giulia. Meglio, non succede niente di pazzesco, così. Ovvio che mi ricordo. Gran poeta. Cummings. Cummings? Sì, certo che mi piacerebbe. E poi Cummings, totale. Senti il piano, ci vediamo più tardi. Fra mezz'ora è in centro, alle due torri, va bene? Pedalava così verso l'ignoto. Non si ricordava di lei, chiaro. Sfogliava mentalmente il catalogo delle ragazze di scuola. Bionda, mora, fumatrice, pallavolista. Il vecchio Alex. Se avesse intuito che razza di musical stava per cominciare, smontando dalla bici non avrebbe mica fatto il solito esordio con la camminata scema da cowboy e la solita faccia da domenica stonata. Vespino bianco già parcheggiato, Adelaide era proprio davanti alla Feltrinelli, che guardava le copertine dei libri in vetrina con indosso un maglione verde e un sorriso zen imperscrutabile, ma molto onnicomprensivo. Ciao! Ciao! Mi hai salvato dall'inferno. In casa mia eravamo arrivati alla follia pura. Andiamo a fare un giro? Questo è per te. Ah, il grande Cummings. Grazie. No. Se il vecchio Alex avesse intuito che Razza di Musical stava per, non le sarebbe apparso con la solita faccia e via discorrendo, ma avrebbe estratto dal cilindro la grinta heavy di un Nicholson, di un De Niro, minimo minimo la glacialità colma d'urgenza dello Swan nei Guerrieri nella notte. Quella domenica pomeriggio lui e Heidi parlavano delle cose che si erano tenuti dentro per anni, con una naturalezza e un trasporto particolari, magici. Le paranoie di Heidi per i suoi genitori separati, la paura di Alex che i suoi lo considerassero una specie di loro estensione e basta. Era come se lì, seduto contro il poggiaschiena di quella panchina, lui ci fosse già stato. Come se Heidi l'avesse già conosciuta. Tra le pieghe della memoria, nelle videocassette d'archivio della scuola elementare, gli sembrava che ci fosse qualcosa di lei. Senti, che musica ascolti? Sbaglio o sei uno di quelli che giudica la gente soltanto dalla musica che ascolta o da quello che si mette addosso? Eh beh, si capiscono un sacco di cose sulla gente, da come si veste, dalla macchina, dal taglio dei capelli. E di me cosa hai capito? Che stai benissimo col rosso. No, dai, non lo so. Si erano salutati in un tramonto ultra coreografico sotto le due torri alla fine. E mentre lui trafficava per liberare la bici dalla catena, Heidi era tornata indietro, l'aveva baciato su una guancia ed era corsa via senza più voltarsi. Beh, potrete capirlo. Il vecchio Alex aveva provato in quel momento la piscuanica sensazione che fosse cominciato qualcosa di infinito. Qualcosa che valeva la pena di andare a brindare da solo al bar, sotto casa, travolti dalle pallonate e dalla gioia. Ci vediamo a scuola, allora? No, che tristezza. Ti telefono. Ok, ti do il mio numero. Scrivilo qua, a casa lo ricopio. Pronto? Sono Alex, cercava dell'aide. Serve qualcosa? Mi dà un pancio al mandarino. Un pancio al mandarino? Sì, c'è qualche problema? No, è che un pancio al mandarino mi sembra un discorso un tantino pesante. Ma guardi che glielo pago, eh. No, non è per questo, è che così a digiuno. Un martini dry me lo dà? Un martini dry allora? Liscio. Si sentivano spessissimo e quando si rivedevano erano più felici e più forti. Ogni volta che avevano voglia di vedersi, si davano appuntamento in centro. Giravano tra le luci dei bar, dei negozi, dei cinema, parlando del piccolo principe e di come liberarsi dai condizionamenti della vita di sempre. Sai cosa dice la volpe al piccolo principe? Cosa? Se per esempio arrivi alle 4 del pomeriggio, comincerò ad essere felice sin dalle 3. Più passerà il tempo e più sarò felice. Quando ormai saranno le 4, mi agiterò e mi preoccuperò. Così scoprirò il prezzo della felicità. E se arriva alle 5? Non ci sarò più. Vivevano il loro strano sogno e si raccontavano tutto e camminavano e parlavano e ridevano e camminavano e parlavano contro tutto il già visto, proprio come in un lungo sogno, quei matti. E poi un brutto giorno le parole fra loro erano state fonte di malintesi. Anzi, forse di un malinteso, uno solo, ma che era la cosa più triste che il vecchio Alex avesse mai provato in tutta la vita. Mi piace quando fai finta di non sentire. Ma cosa vuoi sapere? Se questo è l'inizio stupendo di una storia stupenda. Oppure? Ci vuole del tempo. Per me non è facilissimo. Un sabato sera freddo gelido, in Piazza Maggiore, il vecchio Alex le aveva chiesto di mettersi con lui. Era la cosa più ovvia a quel punto, no? Solo che lei gli aveva stretto forte la mano, detto che ci avrebbe pensato su. Ma aveva un'ombra triste negli occhi. Lui era tornato a casa sentendosi soffocare, col presentimento che per un tempo di cui non riusciva a mettere a fuoco i dettagli, con Heidi non si sarebbe sentito. Chuck, azione! Audiogrammi, in radio come al cinema. Vi stiamo raccontando. Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enza Negroni. Il vecchio Alex cercava di non pensarci troppo ad Heidi. Lei, d'altra parte, non si faceva sentire. Così, il nostro stava cercando di ridurre tutta la faccenda al rango di quelle storie che sono già finite prima di cominciare. Perché magari lei ci ripensa e dice «Credo che sarebbe un impegno troppo grande, guarda. Restiamo amici». Sì, restiamo amici. Ogni tanto a scuola si incontravano per un secondo durante l'intervallo. Adelaide era sempre con qualche collega Carlotta, di quelle con felpa da 100 carte e jeans di Missoni che scoprivano, Dio buono, 5-6 centimetri di calza velata. Senti, ma com'è che ultimamente ti vediamo sempre insieme ad Alex? Beh, sì, ci vediamo spesso. Ha un modo di fare molto carino. Non è un po' strano, con quella sua aria da creativa? Lei lo salutava via rapida, e poi c'era quell'istante in cui nel film non si sa ancora se i due protagonisti si fermeranno a parlare. Quell'attimo in cui sembra che lui stia per chiedere «Beh, come ce la passiamo?». Ma Heidi se ne andava sempre. Continuava a farsi trascinare in senso opposto dal flusso di lobotomizzati che attraversava il corridoio. E lui sapeva che avrebbe dovuto aspettare altre 24 ore per incontrarla ancora. E comunque sarebbe stato per un secondo in una circostanza così. Ma Alex forte, Alex incazzato, non si sarebbe mai mosso per primo. E allora faceva tipo Frusciante in Blood Sugar Sex Magic, un'espressione deragliata così. E transumava anche lui. Andava a parlare di calcio, di chitarre, di ragazze con qualcuno dei cani giovani. Ah, sei scocciato perché non te l'ha data? Senti, una cosa qui tengo, non mi va che ci scherzi. Ma dai, la sai la regola, sono 3 giorni per la lingua, 3 settimane per la sigla. In pace. Ma una sigla almeno... Scusi, dovrei uscire. Però non riusciva a capire. Come poteva lei usare certi espedienti? Come poteva uniformarsi a tutte le altre ragazze, ai loro comportamenti, ai loro trucchetti? Come faceva ad avere per amiche quei rottami di adolescenti globali? Martino non leggeva, non scriveva, non suonava ed era il classico tipo che conosceva tutto il mondo. Alex avrebbe dovuto odiarlo uno così, invece aveva voluto subito essergli amico. Questione di stile. Cristo. Quando fumo mi vengono gli occhi troppo rossi. L'uomo dagli occhi più rossi d'Italia. Se ne accorgono, dici? Non è un gran danno. Se ti va, una di queste sere si esce. Dai. Ciao. Martino sembrava uscito da un rapporto sui giovani a cura della comunità europea. Nella fattispecie era il teenager che ogni regista di documentari sui giovani potrebbe sognarsi di notte. Personale più che decente, molto attento ai vestiti, polo Fred Perry, maglioni di marca. Aveva un lessico da guerriero della notte e una Vespa Special blu da finto Lupin. Io la odio questa scuola. Non capisco che cazzo di cultura ci sia. In 500 ragazzi vestiti tutti uguali che si cagano sotto per l'interrogazione su Sallustio. È vero. Come se studiare il greco e la filosofia ti dia la più grande libertà. E intanto stai perdendo quella di tutti i giorni. Alex ammirava Martino per il tono che aveva lui di parlare distaccato e il modo di agire distaccato. Per il resto, Martino non leggeva, non scriveva, si era messo con un suo vecchio flirt, non suonava, non faceva sport ed era il classico fighetto che conosceva tutto il mondo. Avrebbe dovuto odiarlo un tipo così. Invece il vecchio Alex ci aveva fatto subito amicizia. Si vedeva lontano chilometri che Martino faceva di tutto per non fargli pesare la sua abitudine a serate molto più strong, in macchina fino a Riccione, tanto per cominciare. Per via che non voleva fargliela pesare la differenza, quel sabato che si doveva seguire la formula «serata etilica e stai a dormire da me», Martino aveva accettato di accompagnare il vecchio Alex in una delle solite osterie di Via del Pratello, a spanarsi di Ceres. Allora, con quella bimba come va? Quella bimba che sappiamo noi due... Mi manca. Mi sembra impossibile che sia finito tutto così, in silenzio. Ma non è finito niente, Alex. Lasciale un po' di tempo e tornerà da sola. Non capisci che si è tirata indietro perché la vostra storia la spaventava? In questo momento sta peggio di te. È finito tutto. Sei proprio un pulcino. Cosa vuoi che sia finito? Avevano finito per raccontarsi gli episodi più pittoreschi delle loro reciproche vite, ovvio. e Martino nelle discussioni d'osteria era semplicemente insuperabile. Parlavano e ridevano e parlavano, il tasso alcolico che cresceva con calma inesorabile. E poi erano usciti fuori, a correre a gara da San Domenico alla Galleria Cavour, a suonare i campanelli e «Signora, signora, la scongiuro, apra, c'è un mio amico che sta male, abbiamo avuto un incidente», a pisciare contro i muri e altre imprese non meno definitive che, se sei su di giri e cerchi di dirti «con Heidi è finito tutto», fanno gioco al 100%. «Abita lì lei, lì su». «Chi?» «Ho già capito». «Dov'è che sta?» «Lì sopra, dietro al seminario». Avevano ripreso la via di casa che c'era già luce. Martino guidava la Vespa e il vecchio Alex se ne stava appollaiato dietro con la gola tutta secca. Mentre si aggiustava gli occhiali da Blues Brothers sul naso e il vento gelido lo prendeva a ceffoni, gli si erano cuciti sugli occhi determinati brandelli di un irripetibile, disintegrato e concentrico instant karma. La stoffa ruvida della sua giacca grigia dell'esercito tedesco, la preoccupazione per non aver mai studiato fisica e lunedì c'era compito in classe, la nuca rasata di Martino a 2 centimetri dal suo naso da pugile, il quadrante dell'orologio di plastica col vetro graffiato. Avrebbe potuto essere un altro, in un posto diverso, e invece era proprio lì, appollaiato dietro Martino che spronava la Vespa a manetta su per le strade dei colli, in una mattina pallida, fredda, col mal di testa cyberpunk per le troppe chiacchiere e stronzate, e angosce e birre che avevano cullato quella strana notte da cani giovani. Era arrivato a scuola con 20 minuti di anticipo e una specie di groppo in gola o sensazione di rimorso del tutto simile a quella che provava da piccolo dopo aver trafugato la crostatina del Mulino Bianco dalla dispensa della Mutter. In due parole tardo adolescenziali, c'era il compito di fisica e il vecchio Alex non aveva studiato un emerito. Morale tardo adolescenziale, il giovine sciocco che durante le lezioni di fisica aveva letto Frigidaire e i giornali di musica che questa non è musica e rumore, si ritrova con capitoli 6 da studiare e invece di correre ai ripari frequenta cattive compagnie e alla vigilia del compitus si dedica a piccoli atti di teppismo in compagnia di un amico di quelli che perderli è meglio che. Cazzo è? Acqua ossigenata. Vodka glaciale, no? Gli abbracci non esistevano quando eravamo piccoli. C'erano solo i Frolls e quelli al miele. E quelli con la granella di zucchero. Bravo. Oh, vecchio, ma secondo te com'era Tedeschi? Oh, beh, è un'entità più che ravanabile, oh no, la Tedeschi. Culo molto bene, a mandolino. Sì, ma anche sul davanti, dai, più che ravanabile. Aveva provato a valutare la situazione dall'alto, come uno stato maggiore in difficoltà, le mappe di una manovra diversiva. Oscar era a casa da 3 giorni con una influenza montata ad hoc per studiare greco, dunque nessuno da cui copiare. Il barone ne sapeva meno di lui e quindi non. Gli altri compagni eventuali erano tutti troppo lontani dalla sua postazione, perciò... Poi il vecchio Alex aveva avvistato i primi volti noti. Bugani, con la giacca mimetica farcita di fumo. Tito Scarpa, con le stampelle. Il vecchio Cico, vestito da autonomo, veterano dell'isola. Mazza, col casco in mano. Infine, Rinaldi, l'amico del vecchio Oghe, imperturbabile nella sua giacca in jeans, brufoli e capelli a spazzola. Era uno dei ragazzi più simpatici, Rinaldi. Uno che non si faceva assolutamente il viaggio. E Alex si era chiesto un mucchio di volte come potesse trovarcisi bene, uno così spontaneo e privo di pregiudizi, in quella scuola di stronzi morti. Probabilmente non ci si trovava bene affatto, era stata la conclusione. Gli avevano detto che con Rinaldi si finiva sempre per parlare di sesso peso, che lui era una specie di maniaco sorridente e felice, e ogni volta che si alzava una delle loro compagne per andare in bagno o buttare una cosa nel cestino, Rinaldi si lanciava in fantasie molto spinte che potevano turbarti. Right, we left behind. We were the better. Email audiogrammi@radio24.it. Ciao. Azione. Audiogrammi, in radio come al cinema. Vi stiamo raccontando. Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enza Negroni. È la storia dei tormenti tardo-adolescenziali del giovane Alex che si innamora di Adelaide, compagna del liceo Caimani in partenza per gli Stati Uniti. Ciascun profio aveva una sua lezione tipo. Il vecchio Alex e soci ne conoscevano gli schemi a memoria. C'era il profio che prima interrogava e poi spiegava, il profio che a volte spiegava e a volte interrogava, e poi c'era la profia d'italiano che aveva lavorato attorno ai bembi e ai castiglioni fin verso novembre, circondata dal disinteresse d'un sepolcro. Torri? Presente. Vincenzi? Presente. E Zanotti? Presente. Scusi, vorrei giustificarmi. Ma Tagliavini, tu hai già due giustificazioni. Visto che fai tanto il furbo, vieni proprio tu. Dai, dai, vieni di qua, di fianco alla cattedra. Durante le interrogazioni non c'era problema, si poteva star fuori e rientrare senza troppe rotture. Mentre se si tornava in classe grattandosi più o meno il pacco o facendo rumori con il naso, strascicando i piedi durante una lesson di fuoco su Esiodo, un'equazione monticognita o gli anelli di Saturno, era probabile che il profio ne facesse un caso personale. Nel corso di lezioni interessanti del genere, era consigliabile catapultarsi all'interno di mezza corsa. Un'espressione normalmente disperata per esservi persi un po' di sillabe fondamentali poteva aiutare. Tuffarsi al proprio posto di combattimento, cominciare a prendere appunti in modo furioso e recuperativo, fissare la lavagna con determinazione d'acciaio e alzare la mano, per fare al momento opportuno una domanda qualsiasi, tanto pretestuosa quanto plausibile. Battaglia! Non hai neanche un voto, ma vieni proprio tu! L'abbiamo trovato l'altro angioletto! Vi voglio qui, tutti e due, uno a destra e uno a sinistra della cattedra. Che culo! Non sapevo una fava, se mi chiamava le prendevo la pena e mi segnavo da solo il 2 meno meno. Seguendo correttamente la procedura, al termine della lezione il prof avrebbe conservato di voi altre teste, a livello del subconscio, un ricordo persino vagamente positivo. Se invece si rischiava il «venga, venga», si stava fuori e basta. Gli unici profi che mandavano a cercare dispersi erano quelli meno interessati di tutti, quelli che non pensavano a far bene la loro lezione, ma solo a quanti posti liberi c'erano in classe. Gli insegnanti nulla facenti erano i peggiori, avevano la coscienza sporca e cercavano di fottervi ogni volta. Comunque, chi usciva per primo si affacciava alla porta delle altre classi in cui erano disseminati i compagni del bagno e con un accenno, senza farsi vedere dai profi, chiamava chi doveva chiamare. Il bagno era il posto più bello del liceo Caimani, il posto dove nessuno ti veniva a rompere se parlavi delle recensioni di Blast o della realtà virtuale o di preservativi o dei concerti rock a Chiesa Nuova, Sant'Egidio, Santa Rita. In bagno si beveva birra tiepida, Heineken comprata al supermercato il pomeriggio prima, piazzata in frigo di nascosto, ormai calda un'altra volta. Ma ad Alex pareva stupendo uscire dalla classe con la lattina nascosta sotto la camicia, vedere in fondo al corridoio gli amici punk parrocchiali che spuntavano dalla porta del bagno e gli facevano cenno di sbrigarsi per non essere sorpresi dalle ronde dei bidelli filo guidate dal preside. Comunque, eravamo rimasti a quando Alex vedeva Rinaldi, giusto? Ehi, vecchio! Sei a pezzi? In anticipo? Che programmi ne abbiamo per oggi? 2 ore di greco, storia e il cazzo di compito di fisica. Ascolta, senti, ti andrebbe di fare fuga. Guarda, veramente, non so che fare. Non farti vedere, c'è la Boriani. Smaterializziamoci fra questi giovani. Gli andava e come. Thank you. scazzato. Gli capitava spesso in quei giorni in cui il cielo è espressivo come un blocco di ghisa. Continuava a chiedersi il perché della fine con Heidi. Studiava 10 minuti, poi si alzava alla fine del paragrafo per andarsi a fare una pera di MTV, tipo condannato a vivere alle 6 del pomeriggio per tutta la vita. All'improvviso, in un giorno uguale agli altri, Heidi era riapparsa e il vecchio Alex non sapeva cosa dire. Chi si vede? Come va? Ho bisogno di parlarti. Adesso? Sì. Mi sei mancato. Sei stato male, vero? Perché non si capiva? Ok, lui adesso era contento, ma sarebbe servito? Ok, gli andava bene, bisognava provare. Bisognava provare e basta. Perché il solo vederla gli dava gioia. E sfiorarla e guardarla sottovoce negli occhi. Senti, Alex, mi sono accorta che è strano con te. Noi due, per certi versi, siamo arrivati oltre lo stare insieme. Ti capisco, so sempre quello che pensi. Come se ti fossi dentro. E mi piace. Ma non è colpa mia se non me la sento di mettermi con nessuno. Dai, lo sai. Sei una persona che non si accontenta di stare insieme così. Sarebbe un impegno troppo grande. E poi niente, se ne rimane lì con la faccia di chi vede partire il traghetto. Probabilmente il momento più buio di questa storia. Senza scherzi, dovrebbe darvi l'idea del punto di follia a cui era arrivato il vecchio Alex. Oltre ogni decenza. E adesso cosa succede? So che penserai che sono un po' stronza, ma io voglio uscire con te. Voglio vederti, se vuoi. Dai, andiamo in classe. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. La casa di Adelaide era nel parco del seminario, su in collina, fuori Porta San Mamolo. E la salita di Via Codivilla che bisognava recuperare per raggiungerla era il genere di posto in cui il vecchio Alex non avrebbe mai accettato di portare a far giretti certi infanti da passeggino. Comunque, passavano anche quegli strani giorni e di Martino neanche l'ombra, non una telefonata né niente. Crescevano le possibilità che non venisse ammesso alla matura, era una voce che il vecchio Alex aveva sentito più o meno. Ma in giro per i corridoi di scuola Martino non si faceva vedere e lui non si era preoccupato troppo di cercarlo. Perché quelli erano giorni molto tardo adolescenziali a pensarci bene e il vecchio Alex aveva i pomeriggi sempre molto impegnati. Diciamo arrivava a casa di Heidi verso le 6, 6 e mezzo, così stavano insieme un'oretta in veranda o in camera e qualche volta nascosti nell'erba alta del prato, sdraiati a pancia in su a guardare le scie bianche degli aerei che volavano tra Mosca e New York. Con un giorno già stabilito che sarebbe arrivato, purtroppo, a dividerli, anche se lui non aveva ancora chiari i contorni della separazione e non riusciva a mettere a fuoco la qualità della nostalgia. Per imparare certi ritmi blues avrebbe avuto tempo più tardi, ok? Non era tanto scemo, lo sapeva già da allora. Per questo cercava di pensarci il meno possibile. Con la bici, intanto, andava sempre meglio. La sua potenza era aumentata da quando aveva preso a lanciarsi su per via Codivilla. Era marzo e nel nero delle 8:30 di quella sera di marzo si cominciava a sentire il profumo della primavera. E poi, a forza di salire per quelle strade silenziose, la qualità della pedalata si era fatta più fluida. E nel momento della fatica pensava a Coppi, a Girardengo e anche ai gregari mitici scalatori, gente di cosce d'acciaio e volontà nizzana. Poi, a 60 secondi da lì, c'era Heidi. Le prime volte Heidi scendeva ad aspettarlo al cancello. Il vecchio Alex la ricordava seduta sulla Vespa, sorridente, con il casco in mano. Poi Alex legava la bici e saliva in Vespa con Heidi e Heidi lo portava su fino alla casa del seminario. La primavera gli stava proprio scivolando di mano, non potevano esserci dubbi. Ma nel frattempo aveva imparato a giocare col cambio, ad usare bene la forza. Riusciva ad arrivare fino allo spiazzo antistante la casa di Heidi senza fermarsi mai. schizzava via come una revolverata dai viali, svoltava a destra per via San Mamolo, quindi se non c'era traffico, all'altezza del baracchino dei gelati, infilava, saettando come nessuno, la via Codivilla. Sul tratto in pianura accelerava al massimo, poi attaccava la salita di Potenza sotto gli occhi sorprendentemente indifferenti dei rari passanti e degli automobilisti che scendevano anestetizzati incontro alla città. Cercava di tenere il rapporto di pianura, che ha il passo lungo e ti fa fare più strada, fin dove gli era possibile. Poi si alzava a pedalare in piedi con tutta la bici che ballava sotto. Quando sentiva che la pendenza diventava troppo forte, quando capiva che dopo altre due o tre pedalate avrebbe dovuto poggiare un piede a terra, lungo la curva, di solito al primo cartello di divieto di sosta permanente, si piegava sul cannone e col pollice faceva scattare il cambio. La catena saltava sulla corona più piccola, le gambe ricominciavano a macinare. Lui si spostava sul cordolo, al limite dell'asfalto, per evitare ogni palmo di strada superfluo. All'uscita della curva poteva riprendere a pedalare restando seduto. Quando avvistava la fila delle macchine parcheggiate, stabiliva un traguardo a cui arrivare senza lasciare il sellino. Almeno arrivare alla Golf Bianca, avambracci tesi, schiena curva, vene sulle mani e sui polsi in evidenza, palmi sudati. Almeno arrivare a quella stramaledetta Golf. Pensava ad altro, guardava a terra in quei momenti difficili, scandiva mentalmente marca, modello e colore delle macchine parcheggiate per non pensare al suo corpo, che tanto quello pedalava già anche da solo. Le riconosceva quasi tutte, anche se ogni tanto non gli venivano in mente i nomi di alcuni modelli tipo le utilitarie giapponesi. Golf Bianca in piedi adesso. E adesso era quasi Coppi. Pedalava in piedi, inclinato in avanti, sporgendosi oltre il manubrio mentre il sudore gli colava ai lati delle sopracciglia e dietro gli orecchi, mentre la maglietta aderiva alla schiena. Ancora pochi metri soltanto e avrebbe avvistato i due leoni di pietra dallo sguardo spento, semidormienti sulle colonne a cui era incardinato il cancello. Quel grosso cancello coi due leoni menefreghisti e semidormienti era sempre aperto e il vecchio Alex lo superava di infilata e passava sotto il fresco buono degli alberi. C'era un tratto in pianura all'interno, ma lui sapeva che non doveva ingannarsi, che se rallentava per rifiatare in quel tratto, dopo avrebbe dovuto dannarsi a riprendere il ritmo. E allora si lanciava su per i tornanti del sentiero asfaltato che attraversava il bosco, e alla seconda curva, che piegava a destra, faceva saltare la catena sulla corona più grande, imboccava la pendenza del rettilineo di nuovo in piedi sui pedali. Giocava di spalle per restare all'esterno delle curve, e ormai mancava davvero una manciata di strada prima del seminario. Ah, ma cazzo! Ultimi colpi per arrivare allo spiazzo del seminario. Il vecchio Alex si passava le mani indietro tra i capelli bagnati. Ancora 10 pedalate e sarebbe stata di nuovo pianura, immersa nel fitto del bosco. Gli piaceva immensamente filare veloce in quel paesaggio di foglie e non era necessario cronometrare un bel nulla. Lo so quanto voi non crediate. Magari lui non era così tanto bravo con quella bici. Però l'essenziale non era cronometrare la gara, ma non poggiare i piedi a terra durante la salita, non fermarsi a rifiatare in pianura. Era quello il suo record. Email audiogrammi @radio24.it. Ciao. Attenzione. Audiogrammi in radio come al cinema. Vi stiamo raccontando. Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enza Negroni. È la storia dei tormenti tardo-adolescenziali del giovane Alex che si innamora di Adelaide, compagna del liceo Caimani in partenza per gli Stati Uniti. Intanto a scuola il nostro teorico politico navigava tra insufficienze deprimenti e qualche colpo di pseudo culo ogni tanto. E un paio di profi l'avrebbero cacciato volentieri a calci insieme a tutti i punk parrocchiali, specie da quando le bidelle avevano trovato il bagno appena appena ridipinto, fiorito di tutte le scritte autografe e i messaggi subliminali, tipo «Occhio al cranio, Rottariani» e «Alex ti vede». Quest'ultimo messaggio, intelligentissimo, lucidissimo, a lettere di 30 centimetri, direttamente in pennarello fosforescente sull'interno delle porte dei bagni delle ragazze. Vuoi accendere? No, grazie. Preferisco non fumare. Non c'è il minimo problema. Che scrivi, teppista? Clash City Rockers. È una canzone dei Clash, esaltante. So suonare. E Heidi, invece, sarebbe andata in gita a Praga con un paio di classi della sua sezione, alias tutta gente assolutamente sconosciuta e indegna d'essere nominata per iscritto, di lì a non molto. Il vecchio Alex in gita non ci sarebbe andato perché la sua classe non aveva trovato nessuno che li accompagnava, in quanto erano degli scazzati, svogliati e strafottenti. Martino non l'aveva più visto dal weekend prima del compito di fisica, ma non sentiva tanto la sua mancanza. Fino a quando non era stato lui, Martino, a chiamarlo, in un pomeriggio di luce accecante. Documenti. Non ce l'ho. Non mi devi neanche toccare, Spirito. E questa cos'è? Eh? E questa cos'è? Coglione, il coglione di turno è arrivato, eh? Uno strano pomeriggio lungo, che più tardi, prima di riarrotolare un pezzo della sua vita e chiuderla in un cassetto buio, il vecchio Alex avrebbe ricordato come un fottuto lunedì di aprile. Con Guido e delle sue amiche c'avevo 27 trippi in tasca. Figli di puttana. Ridevano e dicevano: come sei messo, stronzo? Hai fatto la notte brava, stronzo. E io gli ho detto: giù le mani, bastardi, non mi dovete neanche toccare. E questa merda mi hanno portato dentro. Ci andiamo a fare un giretto in questura, eh? Balordo, tossico, lo capisci l'italiano? Martino era in casa da solo, come sempre, e al telefono, già da come gli aveva detto il solito ciao vecchio, c'aveva una di quelle voci che si capiva lontano chilometri che gli era scesa la catena di brutto. E dopo i primi tentennamenti, incalzato dalle domande preoccupate del vecchio Alex, l'aveva vuotato il sacco, Martino, che 2 settimane prima la pula l'aveva beccato a Riccione all'uscita di una disco, e lui era strafatto e stava male, e in tasca c'aveva mezzo foglio di trip. Gli parlava a voce bassa, rauco, con dietro della musica da stereo. Aveva fumato e non voleva saperne delle parole un po' di circostanza del vecchio Alex. Era scazzato e disperato Martino. Lui non l'aveva mai sentito piangere, il vecchio Martino, né parlare a quel modo disperato e rabbioso. E un secondo dopo il telefono si era spento. E quando Alex si era precipitato a richiamare, e per tutto il tempo che aveva tentato e ritentato di riuscire a parlargli, la linea aveva dato il segnale di occupato e nient'altro. E il resto della storia era come se fosse già scritta sui giornali, in qualche modo, conosciuta da tutti. Ciò che né la gente, o la polizia, o i giornalisti avrebbero mai conosciuto, era la lettera che Martino gli aveva spedito dopo quella telefonata. Una facciata di foglio ad anelli, fitta di caratteri piccoli e nervosi, di bic nera. Ci stanno imbrogliando tutti quanti. Se sei un tossico, un handicappato, un albanese, il gruppo ti emargina, ti sbatte fuori. Non puoi neanche iniziare la partita. Per loro non esisti nemmeno. Si accorgono di te solo quando ne fai una troppo grossa e allora finisci in gabbia. Se invece sei una persona normale, sei già una vittima. Non scegli niente che non abbia già deciso il gruppo. Ogni gesto che fai è pensato per lasciare le cose così come stanno. Devi diventare intelligentissimo e sempre critico. Oppure puoi mandare a fanculo la società e andare a vivere sui monti. Ma io non ce la faccio. Ho bisogno di certe comodità. Alex, ci ho pensato come non avevo mai pensato a nient'altro. C'è una soluzione. Ed è fare un salto fuori dal cerchio che ci hanno disegnato intorno ai piedi. Smettere di lottare per dei vantaggi del cazzo, negare tutto. Alex, vecchio, sono a posto. È la prima volta che scelgo veramente, scelgo forte e sereno. Alex, ci stanno imbrogliando tutti. Non lasciarti sottomettere. Non dimenticarmi. Martino. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom. Seduti sui covoni di fieno che stavano dietro la casa di Heidi, dove non li poteva sentire nessuno tranne le cicale e il cane lupo del ragazzino che abitava nella casa di fianco, i primi giorni ci pensavano sempre. Con Heidi non parlavano d'altro. E Heidi certe volte si metteva a piangere, anche se con Martino non aveva mai parlato. E a scuola, naturalmente, non si era fatto che discutere del vecchio Martino. Alex, chiuso nel guscio buio del suo dolore, sapeva che a parte forse 3 o 4 persone, nessuno credeva sul serio alle frasi amare e fataliste che circolavano in giro per le classi. E poi, a parte quelli della sua sezione, gli altri studenti conoscevano Martino sì e no di vista. Si sentiva come un pozzo dentro il petto, come un buco nero che risucchiava tutto. Dobbiamo parlare. Senti, noi ci fidiamo di te. Senti, ho parlato per telefono con un avvocato Forlivesi, sai che lui è molto dentro alle cose della questura. Complimentissimo. Mi ha detto che quel Martino... Tientelo per te. Quel Martino aveva dei precedenti. È scotta. La pasta è scotta, a me piace al dente. Droga. Lo fa capire anche il giornale. Ecco, noi volevamo sapere se nella scuola... Cosa? Non so, se gira roba. Che roba? Vogliamo sapere se qualcuno si droga. A parte il preside? E dai, cerchiamo di essere seri, siamo preoccupati. Non so, hai visto qualcuno spinellare? Dai, di la verità, che tanto... Cos'è? Fai il tuo numero adesso? Spinellare. Fare gli spinelli? Anche se li avessi visti non ve lo direi. E comunque canne. Si chiamano canne! Tanti, tantissimi pomeriggi di studio sommario. E poi a lei, fuori, a pedalare via dai rimproveri della Mutter. Pedalate a milioni. 1000 volte che arrivava allo spiazzo del seminario. 1000 discese sullo sterrato. 1000 frenate alla Girardengo di fronte a casa di Heidi. 1000 volte sotto il sole. 1000 volte l'erba verde e il profumo di quel mondo profondissimo e vegetale. 1000 volte Heidi che veniva ad aprire la porta di casa e lasciava i quaderni aperti sul tavolo della cucina. E forse a noi non sembrerà un granché, ma erano queste le cose che succedevano in quei giorni. Il momento della partenza di Heidi si avvicinava e loro due avevano deciso di passare insieme quegli ultimi giorni prima di salutarsi. Ciao. Ciao. Sei arrivato finalmente. Ho ricevuto il tuo invito. E ti ha dato fastidio? No. Anche se il motivo per cui si festeggia mi fa sentire di merda. Te ne vai via. Sì. Dopo congrue contrattazioni in famiglia, la situazione per il vecchio si delineava grosso modo come segue. Sarebbe partito da Bologna per passare 2 settimane in Inghilterra a studiare inglese. A metà maggio, come back to Italy. Poi una settimana l'avrebbe trascorsa coi parents, a casa. Quindi i parents sarebbero partiti per la montagna e il roccioso avrebbe alloggiato presso la nonna per un'altra settimana, da dividere con Adelaide, fino a quando lei non sarebbe partita per la Sicilia a salutare cugini e parenti prima del... Ok, grande volo. Oh, hai visto quante belle bambine che ci sono? Mi pare che la materia prima non manchi. No, precisamente proprio. Heidi aveva organizzato una festa per la partenza. Festa di addio, cioè di arrivederci. Insomma, festa per la partenza, ecco. Stasera molti pensano che stiamo insieme. Non so, è strano. Visti dal di fuori dobbiamo dare l'idea. Se penso che non ti ho mai baciato. Lo sai, bisogna sempre fare quello che ci si sente. Era stata una bella festa, solo che lui era in Lacoste e a tornare a casa così gli sarebbe venuta una congestione. Erano finiti in camera sua, per mano. Heidi gli aveva scattato un paio di foto in bianco e nero e poi una insieme con l'autoscatto, seduti guancia a guancia sotto la locandina di Via Colvento. Poi lei gli aveva prestato un bel maglione a strisce orizzontali viola e blu e poi in sella. Sì, le chiavi di casa le aveva, bene. Via per un'emozionante discesa. Probabilmente Heidi si stava lavando i denti. Primo, prendere velocità sul tratto in pianura adesso. Con colpo di pollice lasciar saltare la dinamo contro il pneumatico anteriore. Faceva un po' casino nella notte, ma altrimenti rischiava di ammazzarsi giù per il bosco. Prima curva a sinistra, ecco, cominciava la pendenza. Lì avevano trascorso un intero pomeriggio, tipo in aprile, a discutere sull'opportunità o meno che uno dei due si mettesse con qualcun altro. Alex era assolutamente contrario. E anche un grosso ipocrita, dato che poi a Londra era stato con una tipa polacca per circa 2 ore. E poi addirittura con una giapponese. Sì, insomma, anche se si era fatto delle storie, non aveva mai distolto l'attenzione da Heidi. E invece aveva paura che se lei si fosse messa con qualcuno, lui avrebbe finito per recitare un'odiosa parte di ripiego. anche se poi sarebbe stato il primo a capire che non c'era più posto a quel punto. Niente pianti, niente discorsi. Se Heidi si fosse messa con qualcuno, sarebbe stato così lampante che non aveva capito che se ne sarebbe andato in silenzio, pedalando a tutta forza giù per la discesa del seminario, e nei giorni successivi avrebbe girato da solo per le vie del centro, con la faccia tirata e le mani in tasca, come De Niro nella locandina di Taxi Driver. Perché il nostro roccioso si sentiva molto De Niro in Taxi Driver. Un eroe inutile. Che ci fai lì sotto? Non lo so. E se non ce la faccio a restarmene là? Ce la fai. Devi pensare che io ti sto aspettando. Ma io non voglio partire. Dai, apri il regalo adesso. Cos'è? I parents, quando ero appena nato, mi hanno portato a casa avvolto in queste coperte. Io l'ho sempre usata tutti gli inverni. Adesso ci dormirai dentro tu. L'ultima mattina ai giardini erano così tremendamente tesi e buoni e puntuali e gentili. Si erano accorti così perfettamente di quanto tutto assomigliasse davvero alla fine. Un anno senza amore e senza gioia, gli sembrava di vederlo in faccia. Alla fine era stato lui a sciogliersi dall'abbraccio, baciarla un'ultima volta prima di salire in bici. Se ne andava senza voltarsi, diavolo d'un uomo, ancora più forte col passo lungo da pianura. Avevano deciso che un giorno sarebbero andati a Parigi insieme, occhiali da sole e facce allegre da gita, sulla banchina della Gare de Lyon. E allora perché cavolo i suoi occhi erano così lustri, mentre per l'ultima volta scendeva come un girardengo appena appena più basso e rock per la via Codivilla? Cos'altro faceva il nostro matto? Piangeva? Non lo sapeva neanche lui. Certo che filava proprio come un girardengo. E che appiombo! Comunque no, mica piangeva. Aveva solo gli occhi un pochino lustri per via dell'enorme velocità. È chiaro. Testo tratto da Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi. Baldini e Castoldi Editore. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.